ancora io, Mario. Ah, ci sei, vabbè. Ma no, io ho fatto una bassa un poco perché gli dovevo spiegare quella questione di quella M300 che stavo facendo di nuovo casotto. Ma adesso non sta uscendo con la M300, no? Ah, negativo. Adesso sta uscendo bene, perfetto. Gappa. E dove è con pugno adesso? Adesso dovrebbe rientrare la frequenza. Sì, sono qua, aspetta, con la bassa, Mario. E niente subito. Gappa. Ma oggi non ha lavorato tu, Mario? Tu stamattina. Come è stata aggiustata la giornata stamani, prima di accadere a Varendiro Mondo. E se era aggiustata, almeno non ha piovuto, anche se c'era un vento, mamma mia. Ma guarda, se è calma, io domani ero interessato ad andarmene un po' a pescare. Anche se c'è il mare, un bel blu, vabbè, se peschi dalla roccia, se ti metti in una posizione che non arrivano gli schizzi, forse qualcosa riesci a prendere. Però il mare è molto brutto. Ma se abbassa il maestrale stanotte, perché dovrebbe abbassare, dovrebbe andare bene, là. Diceva quello, dopo la tempesta c'è la quiete. Ma non domani, da domani magari. Il mare domani è ancora brutto. Ma da domani siamo già valendo, vabbè. Cioè, se io vado a pescare vado quando non sto lavorando, anche perché così sto un paio d'ore con mio figlio. Kappa, no, ma ti ho detto domani è ancora brutto, e in attenuazione è molto ondoso, per dire, da agitato ma molto mosso, però è sempre brutto. Kappa, dimmi una cosa, vabbè, siccome io ho pochissimo tempo, perché sono sempre con i minuti contatti, ci sto pensando a risolvermi quel problemino della portiera? Non è questione di pensarci, di lì dovresti portare il pezzo e farmelo vedere, io non ho capito come ti è andata la pazzi rudrento. Allora, quello lì ha il buco leggermente più grande, capito? Quando tu gli metti il fermino dietro, quando vai a chiudere, si muove la serratura, si muove ora, si muove dopo e si è rotta la guarnizioncina in gomma e si va raduto dentro perché il buco rimane leggermente più grande della serratura, perché da un modello di serratura a un altro dice che c'è la differenza, che quella che montava quella lì era leggermente più grande. Kappa, questo non lo metto in dubbio, però siccome il mordo è seno di quella parte cromata, parliamo della parte esterna del bocchetto, della serratura, è molto più largo, mi maricano come è andata l'altro giro, ho rovinato questa specie di coso cromato, questa specie di come si chiama, quell'affare rotondo, perché se no è impossibile secondo me che ci sia caduto dentro, da solo. E anche caduto da solo dentro, perché ne è uscita la guarnizione, e mio figlio come ha infilato la chiave non se ne è accorto, l'ha spinto la chiave e c'è scesa dentro, capito? Però quel buco lì è un modello di serratura che ci andava più grande. Siccome io ho messo la mia di serratura, perché le chiavi io ho le mie, e non so quelle che c'è da Marcello, capito? Perché Marcello non c'è la chiave. Io avevo pigliato la portiera perché ce l'avevo ammaccata e niente, tutto lì. Mario, dimmi un po' più. Si è dimenticato il microfono da lì con la parete. Via. Va bene, riprendi un attimo, che come la cosa non me l'ha fatta, me ne sei già scorta. Che stai vedendo? Non è che così capita a tutti di dimenticarsi il microfono, basta che non si dimentica la cosa, sai che se no si scoccia la fatta. E Kappa. Quindi vabbè. Dimmi una cosa, ma tu se c'hai un blocchetto, il blocchetto di quello sportello lì ce l'hai tu, il suo originale, non quello della macchina tua, no? Il blocchetto di quello sportello che ti hanno dato, ce l'hai, anche se c'è una serratura diversa, ce l'hai. Ce lo dovrebbe avere quel carrozziere che mi aveva cambiato la portiera. Se non ce l'ha buttato, lo dovrebbe avere lui. Perché se no non sai cosa puoi fare tu. E rompere i cilindretti di dentro, tanto non lo vede nessuno. così, o eventualmente, se non è fattibile, se sono diverse misure, dove ci sono i pistoncini, non so se l'hai visto come è fatto un cilindro della serratura, metto i pistoncini in modo da permetterti di entrare la chiave direttamente, e tanto c'è una finestrella, così non si vede che funziona con tutte le chiavi. Portato giù in capannone la macchina mia, però passata lì. Sono passati quattro farabutti e mi hanno rotto il vetro, ma giusto per il gusto di romperlo, perché c'è ancora la pietra dentro la macchina, perché la macchina non va, non va a cappello, giusto per il gusto di rompere. Ma quindi ce l'hai in qualche sedia di vetro che è rimasta? A voglia, c'è tutto il sedile pieno di vetro, c'è anche la pietra dentro. E allora te ne accorgi subito di che colore, basta una schizza. Se è bianco si vede, si mette la luce, se è verde si vede lo stesso, verde o azzurrato, tanto la macchia si cosa. Il bronzato si può confondere solo il bronzato con il coso, con il bianco, però l'azzurrato si vede il colore. Olla, olla! Ma tu domani mattina cosa stai facendo? Io la domenica mattina, domani mattina ho le partite dei bambini, perché sto dando un colpo di mano per il torneo dei ragazzini, quindi li abito qualche partita. La sera alle 3 dobbiamo giocare alla Teroce con la prima squadra. Ah, perché se no è passato un attimino lì a Predagnede, che avevamo dato un orario, e passato te l'avevo fatto vedere, così ti avevo fatto vedere anche un'altra cosa. E a che ora lo vuoi fare? Io domani mattina alle 10 devo essere alle punte. Tu alle 10 devi essere alle punte, allora da lì da dove sono io alle punte ci vogliono diciamo 10 minuti. Ma dove sei? A Pedagna da dove tu? Allora, ti rappresenti il capannone di Salis? Caffa. Allora rosso, mi dove sta costruendo molti mesi ora. Sì, sì, già lo so. Io sono proprio il capannone dietro a Salisi, che tu devi fare il giro, no, praticamente, devi entrare per andare all'ufficio portale giù, poi scendi dove c'è l'Eurospi e segui la strada fino al fondo. Ma non sei vicino al consorzio dei pasticceri, no? No, lo so se c'è un consorzio dei pasticceri. Tu come giri per andare lì alle porte, vedi che c'è un carrozziere subito alla tua sinistra, poi c'è un negozio dei marocchini e poi c'è la traversina che scende lì per l'Eurospin. Come tu scendi per l'Eurospin, segui la strada principale, perché come giri dall'Eurospin sei obbligato, vai dritto, vai a guardare il muro di Salis dove sta costruendo e poi giri a destra quando arrivi alla recinzione. In adesso scendi giù a tutti, io sono lì, ma se tu a me mi dici che vieni verso le 9 per dire, io ti aspetto lì vicino al muro qui e scendiamo insieme. Ma cosa facciamo Mario? Io tanto domani mattina alle 9:30 devo accompagnare la bambina in chiesa per il catechismo. E ci sentiamo alla radio verso le 9:10, da quell'ora lì, 9:15, fino alle 9:30, e ci diamo l'appuntamento, lo sai dove, direttamente da Salis. Così non sbagliamo, perché in Chibi l'Eurospi sinceramente non me la metto a sé, ci sono andato una volta sola, non me la metto. Ecco, facciamo così, allora io verso le 9:10 accendo il baracco e niente, sempre qui sul 10 e niente, aspetto che mi chiami tu. KK 9:10, 9, dai, prima di andare a accompagnare la bambina io ti chiamo e ti dico mi sto uscendo adesso, lei deve essere alle 9:30, diciamo il tempo di accompagnare 10 minuti e arrivo giù 10:20, che poi devo proseguire ai punti, non c'è alle 10 una partita da arbitrare. KK, già, e ti viene anche sulla terra, perché come arrivi giù all'incrocio di giù, giri per i punti e lo trovi intanto il campo è quello che c'è all'ingresso delle punti a sinistra, vero? No, vabbè, già la conosco bene, Fedorella, però non mi ricordo dove stai dicendo tu, Eurospin è vicino a Salis, era, però vabbè, non me ne ammetto perché tu mi stai facendo confondere. Il pezzo delle porte è dietro, più avanti di Salis, che c'è vicino alla cementeria. No, allora, quando tu entri in quella strada lì, numero 11, quella che c'è al bar, c'è la 11 o 12, adesso non me lo ricordo, comunque c'è solo quello svincolo lì, tu quando entri lì, anche che scendere fino alle porte, che le porte sono giù, le porte al Marmista, la traversina c'è scritto e poi non c'è da confondere perché c'è anche il capo va bene, ma ci diamo appuntamento noi da Salis, il vecchio capannone di Salis, se non sbagliamo, così siamo più sicuri. Perché fare giri e contro giri, perché se non siamo stati tenuti a ciappare un luogo, tanto vale che ci diamo appuntamento in un posto sicuro, ci diamo appuntamento di lì da Salis. Sulla strada che faccio la Venezia non sbagliamo. Ecco, guarda, io mi posteggio sulla destra di fronte a Salis, in modo che tu come arrivi, ti faccio segno e entriamo insieme, va. K, tanto la macchina mia già l'hai vista, quale già si riconosce. K, non c'è problema. Domani mattina ti sentiamo in baracchino e poi ti faccio sapere. K è positivo. Tanto vicino a lì c'è Marcello, è un brinco. Tanto chi sa Gantinani, vabbè Gantinani, adesso magari le avranno anche demolite. 75 non è che ce ne siano molte. Se fosse stato 33 te lo davo io, ce l'avevo. È 75, però io guardando le mie sembravano uguali, anche quello della Giulietta, la vecchia Giulietta, non so se te la ricordi, dovrebbe essere preciso. No, si assomigliano, perché più o meno le misure, ma basta appena una sagoma sbagliata, una curvatura, sembrano uguali, però poi magari cambia qualcosa. Come numero diverso, per cui c'è qualche variazione. I cristalli devono essere perfetti, cioè se fosse stato per dire un altro particolare che dice si può adattare un filtro dell'aria, cose così puoi modificare, ma un cristallo deve calzare perfettamente. Vabbè, deve correre alla sua guida. Finché era un cristallo piatto, dritto, tipo quello della Panda, gli liscio, non vedo problemi. Ma quando questi dell'Alfa sono leggermente curvati, appena, sono smussati. K, no, quello sì, però a me guardando così la portiera di uno, perché io avevo tutte e due le macchine lì, guardando la portiera di uno e la portiera dell'altro, questo mi sembrava uguale, tutto lì. Magari come dici tu, si avrà il vetro anziché essere largo, non so, 40 potrebbe essere 42. K. Ah, ma ci sono un po' di macchine che sembrano uguali, poi per dire la 1, te lo metto la prima volta, ce ne sono tre tipi e tu vedi lo sportello identico, preciso identico, poi vai a piazza è diverso, ci sono tre cristalli diversi, la 1. K. Ma è Luca che è sceso. Antonello che si è fatto? Antonello si è cotto alla porta e sta mangiando. Pucu, rispondi. Attento un poco, non risponde. E cosa, Gianni, non si è sentito Mario? Gianni l'ho sentito quando stavo andando al lavoro, però poi io sono dovuto uscire, quando è uscito dal lavoro non l'ho sentito, però so che doveva andare a questa cerimonia e doveva andare a ballare. K, no, sono passato oggi al produttore da controllarmi la banca, tu già mia moglie, tanto dovevamo fare la spesa, poi entriamo in questo negozio, non siamo mai entrati, dove lavora Croce, Gianni, Pocaienti, bello come negozio ordinato, diciamo, il prezzo è abbastanza buono, però non ho visto Gianni. Non è cazzo. E Gianni sarà stato dietro dove c'è il camioncino, capito, magari stava sistemando pedane di roba. K, perché non fa la vendita lui? No, lui non ne fa vendita, lui è per mettere a posto il magazzino, entrare qualche pedana di roba, capito? E fa le consegne a domicilio e porta il materiale agli altri negozi, sempre del suo datore di lavoro. Allora per quello che non l'ho visto, no, io pensavo lui si fermasse dentro ai gardinieri all'interno del negozio. No, negativo, riprendi un po'. Va bene, quando poi finito lì domani, verso tipo sono le 11, da quello gli amico giorno. Andiamo a portare il microfono a Adriano, così almeno la prova. Capa. Andà bene, ripeti. No, atti. Beh, facendo i piatti, non sapevo che facevi i piatti, poi me ne vado a usare anche a me. Beh, sono bravo a lavare anche a rompersi qualche volta. Una volta avevo solo a Lublina dei piatti. Ma io parlo in italiano, tu hai detto sto facendo i piatti, e io ti ho detto fammene una rosera. Capito? Non ti ho detto lavare i piatti, tu hai detto sto facendo i piatti, e io ti ho detto fammene una rosera. Giusto Roberto? Ma fa parlare per italiano, sto facendo i piatti, non sto lavando i piatti. Vabbè, volevo dire stavo lavando i piatti, per esattezza, là, ho detto sto facendo i piatti. Maliziosi. Adriano, vuoi un po' di pasta, mezzo chilo? Perché? Mezzo chilo di cosa? No, stavo ascoltando un altro amico, non mi ricordo sinceramente perché, perché avevo sentito, mi ha detto, sento un bel po' di scalofilia, roba del genere. Mi sento male che quando sono domando un po' di lavoro da sua parte, sapendo chi è dove lavora. Capito Roberto? Lo vedo, pubblicità alla radio, e poi mi metto l'alimentatore che la batteria se ne sta andando del portatile. Attacca l'alimentatore, attacca. No, questa che anche lui le sa così di che tipo di cristalli ci sono, se bisogna averle un pezzettino. E siccome essendo in questo campo però non mi occupo, non ci occupiamo di carrozzeria, non sapere, giusto per dare lavoro a lui. Almeno. Non hai capito chi è? No, bello bello. Che cazzo mi sono? Ho capito che non lo so assolutamente, mi interessa dove lavora, che lavoro fa, e ho ascoltato per 45 minuti e ho sentito qualcosa di interessante. Allora, io ti do un'indicazione, non ti dico niente. Te la ricordi la vecchia BMW? Ma la vecchia BMW in che senso? La concessionaria o che cosa? La concessionaria. Beh? Vicino. Cresce un'unica ogni giorno a Pellanizza. No, negativo. Io ti ho parlato di una vecchia concessionaria, vecchia, perché prima di Pellanizza era in un altro posto e prima ancora era in un altro posto, che il figlio poi era morto e iniziava a trovare in moto. Allora, facciamo un po' di calcoli. Allora, io non sono così vecchio, però ben luce c'è da lì, insomma, però deve essere anche Roberto. dire. Per darti qualche indicazione, zona, diciamo, zona stadio. Don Mascaglio. E che è la meccanica industriale che non ha niente a che fare con questo tipo di roba lì. Don Mascaglio, non che ce ne siamo molte, che non lo so. Ok, va bene. Buonasera, avanti, che salutato. Ciao Lalla. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ma allora devo finire di digitarmi queste tre righe nel computer e già entro. Ti sto ascoltando. Scusa, Adriano. Fatti sentire dopo. No, mi lascio tutti i ballacchi, come dicono tutti quanti di questo periodo. Vado avanti. Ho detto, Adriano, tu sei nei veicoli industriali, cosa fai? Meccanica di veicoli industriali o di altri generi? No, meccanica industriale è installazione... Meccanica industriale, è presente. Che non riguarda i veicoli... dico è meccanica industriale, capisci a me? Non ti sto seguendo, io veicoli industriali sono vicino a Sarvi, se la conosci. Meccanica industriale, non veicoli industriali. La meccanica cosa intendi? Tornitura, cosa non riesco a seguirti, attrezzature, cosa fai? Esattamente, hai capito. Caffa, caffa. E sei dentro un Sassari o fuori tu? No, dentro un Sassari, è un'officina famosa, Sassari. Perché chiunque si può fare tipo di... Se hai avuto un problema, non ho avuto ancora... Che non si può fare da qualunque parte, si può fare da qui. Cappa, cappa. Riprendi Mario. Vedi che ballanche. Vedi che ballanche. Niente, comunque, Mario è un po' deluso. Allora, Lando, perché... Mi sono accorto di che anatomico si va a capire di tutto dentro era solo la schiglia, tutto lì. Quelle sono cose che si fanno per passare tempo, però sono meccanica industriale. Io vedo lì così a motore, cioè, è una cosa diversa. Prima tu e la vera mossa vada. Ehi, yeah. facendo questa romanza, non sai che c'è qui? Sta facendo la lettera d'amore a Salamone. Mi sono dimenticato di Antonello. Antonello, avanti. Sono qui, non c'è problema. Oh, yeah, yeah. Bene, mi ascolta via, frusciando sto con questa cosa. Adesso mi confermo di no. Mi è appena riuscito, cioè, poco poco. Per carità, entro una volta asimmetrica, ma per carità. Io sento solo... Ma... Ma non mi rispetto. No, no! Non mi rispetto. Rio! Ecco, non lo mi rispetto. Aspetta. Se mi ascolti male. Ecco, non mi rispetto. Due radio ci sono buone. Segni malattino. Segni malattino. Due radio, no, adesso ce ne metti di una, più di due, via. Due ce ne sono buone. Ma dove ti? Dove ci sono? Cioè, la tua è un'altra. Che cazzo sei te? Però quando accendo, le poche volte che accendo, questo è l'inizio di uno che rappresenta poco la 27, su cui sì. Quindi non lo prendere per una cosa proprio seria. Uno accende, sente le mazzolate, ti spacca le cuffie e vinca il mitter. E appunto, se mi sarà fino, sarà bene. Ma ecco. Va bene, va bene. No, io non so se me l'hanno usato o meno, ma non credo. L'hanno usato la mia, credo che sia sempre stata così. E va bene, va bene, ce ne sono altre di queste, via. Via. Due ne conosco di questo tipo qua, anzi veramente ormai è venuta a uno, perché per quello che è tutto fallera, un'azione compressa, ultra andata a fanculo, non so come c'è il plumino d'apparato. Che stai facendo, eh? Chi è? Avanti. Scusati. Chi è? Allora, se sono un baracchino, se va bene. Allora, io un baracchino lo accendo una volta ogni tanto. Parlo come mi piace. E tu guarda le chiappe. Appunto perché lo accendo ogni tanto. Quindi una cosa che ti ho fatto di finire di chiappe. Ma l'hai detto? Non ho alcuno sotto, ma non sei passato. Ma cosa vuoi passare, Fino? Sono piccolino, dove faccio? Non posso. Ma che è? Bisogna andare a pulire a te, per carità. Sono 25, che cazzo è di là? Perché se si aveva una quota a campo avevano fatto una ragazzata ugualmente, né? Poi abbiamo inteso gli errori. Vabbè, cosa vuoi che vi dica? Vabbè, ragazzi, io ho mangiato a farmi due chiacchierate veloce veloce e a salutare i vecchi amici. Niente di più, dai. Non la riprendete voi. Adesso vado, faccio, vi metto in orizzontale e non vi penso perché sennò non riesco a dormire. Comunque vi saluto con tutto il cuore. Ciao! Bravo, là. Ciao Tino, buon QRT. E buon rilassamento, visto che ti metti in orizzontale a riposare. KK, andrà bene, riprendi con poco. Vaffanguala ti. Ciao, ti ci sentiamo. Buon QRT, buon QRM. Bellissime. Allora, ci fanno il lavoro da bere. Ah, boh. Le nascono giù in tappi, gu. Mi sarei fatto un po' di animo. È un studio. Ciao, sì, buonanotte, avvio. Ma ragazzi, ma che vuoi quello che lo farebbe? Guarda, non accetto provocazioni, sono portato della macchina e vengo a cercarti. Oh, non mi troverai mai. E forza Italia. Ecco, andiamo a fare un annuncio. Come c'è una gaccia? Ascolta, ma chi sei, Claudio, sì? E io Claudio. Ma a livello coglione, Claudio, arriva. No, ma non Claudio, non Claudio l'amico mio, Claudio, se non sei tu, ma sei che te lo feso, Claudio Messi, sì. Ma vai, ti dai quello che ti sei insomma, va. Sì. Vabbè, non me la continuo da una testa. Sì, ma Bertinotti. Chi è, altrimenti? Bertinotti, del Partito Comunista, Rifondazione Comunista. Guarda, questo l'ho connesso, e sono un amico, non lo conosco. Veramente sono una donna, non sono un maschio. Sì, fatemi male. Sì, no. Sì, mica donna davvero, che non sai chi è, principessa, eh. Sei bambino, stai inventando. Allora, come ieri notte. Ma ancora non ho mangiato, ancora presto. senti, ma gli hai tagliato il sommesso. A che cosa da ricordare? Un maschio di pulare, ma non hai il ricco. Appunto. Tino, non mi prendo mai. È cucito, muro. Aiutato, no. Dopo dico che siamo dei disturbatori. Massimo, anche lei, da chi dico che siamo dei disturbatori. Siamo una vecchia vada. Siamo dei rompi coglioni, adesso c'è il tondo. E che non vuoi, sono stati... Se ne fischi. Tanto qua, mica fai casca molto uno. Vabbè, ma molto poco vuol dire? Poco, poco. Quanto? Una camizza. Ora ammazzo per i due. Già sai che mangio di là sopra adesso. Sono convicino, guarda, Antonio, anzi. Aria, ma tu me li dici? No, sei stato. Stavo facendo una cosa. No, no, non mi stavo ascoltando, mi stavo seguendo il posto, insomma. Sa, nel letto che ho preso. Io credo, non si dico cosa. No, più che altro non lo vedi. Mi Allora, sai cosa mi ha detto? Perché prima c'è il manimento, mica sono andato a ritirare da lui. Sono andato a ritirare da un altro, la verità. Bisogna fare così, se va bene qualche cosa deve andare a ritirare. Purtroppo è così che ti avessa. Ma questa gente è tutta palamuta, tutta doppia faccia, per carità. Lui ti cercano loro per il voto, quando gli dai il voto poi ti girano la faccia, non ti conoscono più, anche se no ti cacciano i dati. Un bel tempo fa, scrivevano le lettere, se ti ricordi, carissimo amico mio, aiutate la mia vita, non lo conoscete a questo. Cappagappa, vai tu proprio così, è vero, andrà bene. Facciamo riprendere all'anno e ci facciamo quattro risate, riprendi Landuschi. Allora, il mio numero di mondo era di 20 anni fa, lo facevano le due stelle. Mi chiamo più Lando, sono Adriano. Dino! 6DX, 6DX. Cazzo, bagatto di due, ma che ho fatto il fidente. Ma chi non lo faceva fare? Vabbè, che significa? Quello che cosa dire? Mi ricordo sì. Anche io avevo un calore. Sì, a come fai 23 come se già hai una voce? 23, 40, 81. Non conosco mai nessuno. No, aspetta, un attimo, il registratore, un attimo, e ci facciamo vedere i nostri, come mi chiedi, mi risalda. Ciao, i buchi a chiuso, Adria, buco del piso è chiuso. che è c'è qua, blu? Ah, signora, non credo. Ciao Roberto, dunque lo dice, ciao a tutti, la persona è amica, non sono, magari cercando di sapere che cosa strana. Cerchiamo, non so, mese prossimo, tra due mesi. Ciao! Sono dunque, ciao a tutti! No. Come se non lo dici, parteva su di te, mi sei rito. Ah, magari la gioia. Secondo me è andato, sì, mi è andato proprio. senza di andare. Ho casa Carolina e basso il Gianfranco. Penso non mi lasciano andare, vai Luigi. Ehi, la zia, ti vai. Ciao Franco. Ciao Maria Luigi, buonanotte. Ciao Franco, quello che è alle prossime. Roger, Roger. Franco, ma Franco chi? Cavo, io vado a non ti capisco. O tu sei stanco. Io non ti capisco. È andato stanco. Credo che ce ne sono rimasto nel stanco l'altro. Sì. Hai fatto quello che gli ha rotto molto. Ciao. Guarda, io mi voglio tornare a usare il loro, quando il tiro l'ha fatto 9 volte, ancora non ci ne è andato. Tiro, non quello che sì. Io non ci sono io. Può fare quello che ha cazzo di base e bari, come faccio io con tutti e poi dentro, dai che. Hai capito? Ma dai che? Allora, vabbè, adesso mi sono fatto vedere perché mi sono andata, quindi no, non lo faccio più, c'è una di me anche, tanto non rispondo. Allora, volevo raccontare una volta che Tino è andato con le negre e non è riuscito neanche a fare quello che doveva fare. Ma sta foto la vuoi solo? E non mi ha fatto finire. Ti devo chiudere la gomma. La vuoi solo, lo dice. Ah, oddì. È stanca. Adesso mi ha fatto la cosa di una, ora lì. Io ero il confisco, sono uscito dal vivo. Sono andato dalla macchina, solo che ho detto di là, vuol essere, se ne farà da chiste. Per carità, la goccia, mica di cuore. Da capo si vede anche mi prende Luca scappa tanti scippi l'ha fatto Dino che ne vado a Sardina dove vado lo scippo a mezzo a durava già quanto vuoi da 100.000 c'è proprio di resto guarda non ho accetto provocazione ho usato i riti a fare le macchine ci sono lì bravo sì ma tu sì che ne sai scappa Maria, se no di scindarmi la vecchia. Scusa, perché mi si dorma. Ma se sei tu, baci uno spegnimento, ci vediamo. Siamo io fino. Ti prendi la vecchiaccia. Cappa, cappa. Bravo. Sei buon che è sulle radio. Ok, dai. Come le si dà? Non sono là, tu sei, tu. Nato, la scorsa eviti e piedi. No comment. Signora... No, sì. Antonello. Antonello. Io, signor Nicaldo. Signora Maria Luisa. Ecco. Non so a cucati c'è rimasta la sera. E Mario non lo cerchi. Non parla, Mario. Però ce ne metto sopra modulare io. Vabbè, ma... Cazzo. Scusa la parola. Come ti senti, no? Già, mi sto ascoltando io. E niente. KK, anda bene. Ciao, perché poi comunque, mi sentita? Io ero da poco fa che ti stavo, che ti stavo. Ti volevo salutare, ma non te ne lasciano tempo. Non so se c'era una mandria di cavalli e non si capiva un tubo. Ciao Mario, che c'è, ciao. Mandria di cavalli. Qui sono un cavallo io. aspetta, tu là due anni, non si ne andato. Il giacco è paura. sei già truccato, non si vede che sei truccato. Ah, mi stavo dicendo che stavo disturbando il Rai 1, ma a me qua non mi risulta. Oh! Ah, non dipende, io sono di più benvenuta. Che diavolo, ha una voce. Sono giù di l'altro che sei più bello. Adriano. No. Avanti, l'altro Avellano. Antonello! Sto facendo la pasta asciutta adesso. E Magnini sta scatoffando. Luca! Aspetta un attimo. Guarda, attiva le interrighi. Mi dico che non rispondi. Attiva le interrighi. Aspetta, quello di genere. Ah, devi dare, cosa ti dice? Ma non lo chiedo, non fa con la ruta. Niente, ti devo prolungare lì. Ma non fa senso, sto facendo le righe. Vabbè. Come ho detto. Sì, se lo fa senso, non va bene. Sì, Maria. Posso chiedere un favore? Ah, che due, dimmi. No, uno. Ma è compito il silenzio mi pute a casa. Ah, va a cagare. Tu mi hai dato tanti due, o tu come lo fai cagare? Due, due. Andi, bermi. Qua, da me, a parte in camera non disturba, perché è un'unica antenna, perciò sono due deviazioni. Una in camera e un'altra a camera. Ora sicuramente non ci sono i cervelli. Allora che si mi devo fare a capo. E come fai di disturbare? Non disturba tu, non disturba neanche gli altri, no? Allora, qua disturba solo. Ho provato a chiamare a lui. Se vado oltre il 15, 16, 17, 18, vado su Rai 2 e mi fa delle righe. Ho già provato, pulisci. Però se vado sul 10, sul 5, non disturba. In nessun canale, neanche su Rai 2. Dopo il 15 si vede disturbo, faccio delle righe leggere, leggere. No, allora adesso perché dice che disturbo? Ah, siccome è da là, è per scrivere anche qua, sta scrivendo qua, si va in uno, non è bello pulito, è da là, ma ho l'antenna sicuramente. Cioè, mi sono fatto nel tutto marcio, Ma come sei disturbando? Ah, buono, se mi sta chiamando. Chi ti sta chiamando? La mamma Rubo chiama lei, lo chiama Pepe. Non avevo capito, credevo che fosse qualcuno di più che lo stava chiamando, che stava disturbando, ma se non è una mia antenna, non disturba il suo televisore cameretta, non dovrebbe disturbare anche gli altri. Allora, sono su Rai 3. E Pagosa? Vediamo un dettaglio per trovarti in questo campo smanettato. Cosa smanettato? Ora, ora, ci sto entrando. Vero. No, ma è fatto. E basta, Gianco, perché ti sei, che ti sei smanettato. Ma cosa basta il vatto, che no? Sto usando un vatto di niente, il vatto di baracchino sono. Allora, hai visto un monte che avevi fatto il dubbio, è sempre così, Che fonte, il figlio. Spiccoli c'è un diodo spaccato. Quello che spaccato quel diodo è rifatto il ponte. Ho un pezzo di filo, se ti ricordi. Ah no, servo il filo, la trappola per non disturbare gli altri. Io vero. Ma poi squadra, c'è umidità, cosa ne so, non l'ho mai fatto, mai, giuro, mai fatto, non ho pensato, solo Rai 2 se vado oltre il 15, anche al 16 lo fa, non l'ho già provato, ma gli altri canali è proprio zero. Ma la trappola che sta tu sta funzionando. Beh, buonanotte. Sì, ora lì sì, no, non per quando, per la signora là, sì, ora lì si stanno sempre bene. Va bene, allora quello è la parte tua che ha buttato. Ah, si fa col musico, ma si mette. Antonello, sei rientrato? Ciao a tutti, ciao Mario, ciao Luca e ciao Buon, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Io prendi Andrea. Che ho parlato? Andrea, non riprendi, perché penso che sei andato a curicare. Scusa, quello lì, cazzo, non mi metto a cucciare, ma... Allora, lasciamo la carta a posto, si sì, sta disturbando. Ah, se vai uno, no? Vediamo se vai due. No, se vai due, no? Ciao, perché c'è la notte? Capiti per volte. E qua, 72,8. 72,8 ma ci pensa. Luca. Luca pure preparato. Adriano. Ehi, sono qui. Sempre sono qui. Sempre due amarando le camanca. Hai cappa cappa. Non sono sadisti. No. Vedi, me la danco qua. Sentiamo fra un mese. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Andrea, buonanotte. Ciao Andrea, buonanotte, alla prossima. Guarda, ci arriva pure il cuore a sto pensando a te, bella sta tua. E tu? È stato un'altra. Non ti faccio un tiro però, cazzo. Non intervieni. Io ti sento, non ci vedo, non sono soldo. Solo che io non posso entrare perché sto facendo cosa qua. Stai facendo? Sto digitando roba al computer che mi serve in fretta, quindi non posso entrare. Ho quasi finito. Passato così, no, grazie, non è la prima, sì, la stai facendo. No, siccome ho fatto il diploma, no? Sto digitando l'ultima pagina del logo da spedire e ho finito. Ma che tu mi dici, mi stai facendo? Sì, ma l'ho già fatto, ma l'ho fatto anche quest'anno, l'ho fatto anche quest'anno, va, ho fatto due già fa. Forse il futuro lo stavi facendo. Beh, la radio non sembra solo per le coglionate, ma si rimette, serve. Allora, se sto andando libero di andare, là. Ci sentiamo alle prossime, ne parliamo. Ma di che? Dove andare? Andare dove? Mi sentiamo sabato sera. Se mi puoi dare qualche dritta... Perché non abbiamo neanche la momento, ma è troppo facile. Aspetta, vediamo, è possibile che non sono mai nessuno, adesso c'è una volta, blu. Sì, sono annullati i canali, ma ora quasi. Ripeti il passaggio anche lì, non so come lo faccio. Basta. Adesso che lì se ne cambiamo di quello, tanto no, di noi entrano e sovrambo di là. Questi 5 minuti che ho finito di prendo. Oh, io sono qua. Do un'interessa. Niente, niente. Aperto. Attenzione, Natanza, Natalino. Aspetta, mi devo fare uno e ho finito, un attimo. No, solo che ho dato un info.